ragione naturale che spinge l'uomo ad imparare. Se ti lanci lentamente senza perdere più niente, la fretta ti lascia poco. Chi va piano sa di andar sempre lontano. Amami come sei tu, amami come Gesù, amati e rispetta. Verso te stesso, chi sa bene con se stesso apprezza ogni suo momento, assapora la sua vita, vive pieno tutto quello che lui ha.